inconfondibile sigla. Benvenuti a Cialtroni nello spazio, seconda puntata, stagione 2005-2006. In studio Alessandro e Francesco, ancora senza Marco, ancora per pochi giorni pare. Questa volta è colpa nostra, però non gliel'abbiamo detto troppo tardi, ma la prossima settimana ci sarà di sicuro. E lasciamo dunque sfumare Barry Gray per iniziare a parlare di quelli che saranno gli argomenti di questa puntata. Ma prima un ricordo: che cos'è Cialtroni nello spazio, dove è il sito? Allora, il sito è spazio.circolab.net. Cialtroni nello spazio è una trasmissione che si occupa di informatica, libertà digitali, libertà in generale, privacy e tecnologia in senso lato. È una trasmissione che è nata 4 anni fa, che ha avuto un buco. Noi si è un po' persa nello spazio, ma poi è tornata. E insomma, quest'anno continueremo come l'anno scorso a tenervi compagnia nello spazio del mercoledì pomeriggio attorno alle 12.30, subito dopo il giornale radio e l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, un po' anticipata rispetto all'anno scorso, dato che dovrebbe ripartire verso novembre lo spazio dedicato al naturale, al biologico, insomma ritmo naturale a cura di Vera in redazione. Intanto che non c'è, magari qualche volta ci prenderemo delle libertà, invece che far durare la trasmissione mezz'ora la faremo durare 40 minuti, anche se non credo che sarà il caso di oggi. Oggi sono tanti comunque gli argomenti che andremo ad affrontare, in particolare avremo tra poco un'intervista con un attivista di Autistici Inventati per farci spiegare quali sono le modifiche che stanno avvenendo in questi giorni proprio al loro server di movimento, che negli anni scorsi è stato utilizzato sempre più per ospitare mailing list, per creare progetti liberi e per costruire progetti in rete dopo il blocco di Autistici che c'era stato la scorsa estate per motivi di privacy, dato che la polizia postale era riuscita a intercettare le email e i dati che passavano attraverso la loro macchina. Sono entrati in una fase, diciamo così, di paranoia superiore, e quindi ci saranno delle modifiche che sono anzi in gran parte già avvenute per cercare di tutelare di più gli utenti e evitare di capitare nelle situazioni spiacevoli come quelle della scorsa estate. In particolare a tutti gli utenti di autistici.inventati.org è arrivata una mail che appunto presentava questo piano R con il quale il collettivo si prefigge gli obiettivi di rendere più difficile un episodio tipo quello che era successo quest'estate con Aruba, dove Aruba era sostanzialmente la ditta che forniva lo spazio dove mettere il computer che faceva da server per tutti i servizi, e la polizia postale appunto è andata presso Aruba senza chiedere l'autorizzazione ai gestori ai proprietari del server, ha dato l'accesso libero alla polizia postale, e c'è tuttora un processo in corso per questa cosa. Comunque da allora appunto il collettivo ha cercato di pensare una soluzione differente, e qualche giorno fa appunto è partito la messa in atto del piano R, che si tratta sostanzialmente di una delocalizzazione, cioè di uno spostamento di una serie di servizi. Comunque ce lo spiegherà meglio un attivista di autistici. Poi sono tante le segnalazioni da fare, di articoli sparsi qua e là e di cose che sono successe nei giorni scorsi. Tra poco magari inizieremo proprio con le segnalazioni. Parleremo del primo wurm del nuovo web che ha colpito in questi giorni il server MySpace, con qualche considerazione di Paolo Attivissimo, un giornalista informatico che da anni si batte per la divulgazione della cultura informatica. Ma direi partiamo subito con l'intervista. Ah, va bene. Quindi tra qualche istante in collegamento con noi un attivista di Autistici e Inventati. Autistici e Inventati. stiamo ora in collegamento con un attivista di autistici, Inventati, per parlare del nuovo piano R, implementazione un po' tecnica e nuova, ma anche un'implementazione tecnica da un forte significato politico. In sostanza ci saranno dei cambiamenti nella struttura di uno dei server di movimento più noti, ovvero quello di appunto Inventati e Autistici. Noi siamo in collegamento con te e volevamo chiederti appunto di spiegarci un po' che cosa sta succedendo in questi giorni. Beh, allora, stanno succedendo un sacco di cose, soprattutto sono pressoché fortunatamente successe, nel senso abbiamo cambiato completamente l'infrastruttura che ci ha portato avanti per questi 4 anni, nel senso noi per 4 anni abbiamo, diciamo, offerto i servizi di email, ospitato siti web con tutta una politica della difesa della privacy degli utenti, e purtroppo non era più sufficiente, nel senso noi avevamo un computerino vecchissimo prestato da amici o comunque insomma recuperato nel corso degli anni, e da una parte la quantità incredibile di utenti che comunque iniziava a schiacciarci le risorse e il tempo, dall'altra le condizioni politiche del contesto generale ci hanno obbligato a dover ripensare un po' tutta la struttura, insomma, e che è stata modificata proprio partendo da alcune riflessioni, insomma, poi proprio politiche rispetto a qual era la cosa migliore da fare per cercare di difendere poi la privacy nella pratica, anche perché abbiamo avuto insomma delle brutte esperienze negli ultimi periodi, insomma, come forse qualcuno magari ne ha parlato, se ne è sentito parlare, insomma, se ti ricordate la vicenda di Aruba e insomma l'acquisizione da parte della magistratura di insomma migliaia, tutti i nostri 30.000 utenti di mailing list, dati non autorizzati, che ancora resta in questione, poi magari vediamo. In pratica, così, per fare un quadro molto semplice, la situazione è che noi abbiamo sostituito un server che stava tempo fa presso Aruba con un numero superiore di macchine, al momento sono 3 ufficiali, nel senso che sono quelle in produzione, poi vediamo se riusciremo a metterne altre, anzi stiamo cercando sempre posti per mettere altri server, che si distribuiscono in maniera equilibrata il carico e quindi anche la criticità dei dati personali delle persone. Sostanzialmente non abbiamo più un unico posto che è quindi il punto chiave in cui è abbastanza semplice interagire e quindi prendere eventualmente acquisire dati oppure interrompere la comunicazione, ma sono X posti sparsi un po' per il mondo, nel senso non siamo più rimasti solo in Italia, ma abbiamo fatto anche un passaggio internazionale da un punto di vista di locazione fisica dei dati, che speriamo questa cosa un pochino ci garantisca da rendere, diciamo, più, diciamo, ci dovremmo essere più in grado di resistere all'attacco quotidiano che viene fatto, insomma, nelle varie forme legislative legalmente supportate o meno. Questo così, diciamo, come prima approccio. Quindi adesso ci immaginiamo tanti server sparsi in giro per il mondo, che speriamo aumentino, anche se avremo abbastanza soldi, che purtroppo questo è ovviamente sempre un problema. E insomma, se il servizio evidentemente riuscirà a funzionare, sparsi un po' in giro, con l'idea che se ne viene per qualche ragione interrotto il servizio su una macchina perché ha un problema tecnico o un problema di altro tipo, il servizio dovrebbe continuare a rimanere in funzione, attivo, e quindi permettere alle persone di continuare a comunicare anche in una fase, diciamo, che in cui la comunicazione è spesso al centro degli attacchi più disparati, insomma. Ecco, ma questo per gli utenti è stato un passaggio trasparente? Ve ne siete occupati solo voi attivisti o c'è qualcosa da modificare nei computer, nelle configurazioni? No, allora, trasparente non lo è stato, nel senso che è trasparente poco perché, diciamo, c'è stato abbastanza un approccio violento nei confronti dell'utenza, nel senso che tutti hanno dovuto interagire questa cosa, siamo tutti complici del piano R, nel senso che è necessario che ognuno faccia delle piccole modifiche alle proprie configurazioni. Abbiamo cercato di ridurre queste modifiche al massimo, nel senso, poi nella pratica le cose che ogni utente deve fare sono molto poche, abbiamo fatto i siti con tutte le configurazioni, poi magari possiamo anche riassumerle perché sono proprio 2, ma insomma l'idea era comunque quella di rendere, per speriamo l'ultima volta almeno, insomma, con la velocità con cui cambia le cose non si sa, ma insomma per un periodo abbastanza lungo avere una configurazione pensata per essere più in grado di gestire una quantità di utenti superiore e un livello di complessità e di conflitto sulla comunicazione un pochino più elevato, cosa che evidentemente dobbiamo fare. Senti, spesso è stato detto la privacy non si delega, c'è una sorta di tutela in più con il piano R, è sufficiente in realtà? Cioè, diciamo di no, nel senso che ovviamente noi non siamo in grado di tutelare in maniera di dare nessuna garanzia a nessuno rispetto alla riservatezza dei dati, cioè noi possiamo fare il massimo che è possibile rispetto alle conoscenze che abbiamo, agli strumenti, alle risorse. Il problema che avevamo già avuto allora è che in realtà tutte queste cose non si possono comunque delegare a qualcuno, nel senso che noi possiamo dare delle garanzie che non registriamo i log, che evidentemente non teniamo i nomi associati alle caselle mail, che sono tutte cose che sono pratiche evidentemente garantite. Però per quanto riguarda la criptazione eccetera, noi li mettiamo a disposizione, ma invitiamo sempre tutti a usare strumenti che ormai iniziano a essere anche facilmente utilizzabili, come, non lo so, per leggere la posta, un buon client di posta per scaricarsi la posta abbandonando Outlook per sempre potrebbe essere Thunderbird, che ormai è utilizzato, della famiglia di Mozilla, a cui con un semplice plugin, un'aggiuntina, è possibile integrare il sistema di criptazione più popolare, nonché probabilmente più efficace al momento, che è GPG. Insieme una coppia di questo genere ti permette di utilizzare un servizio di posta come il nostro, ma anche volendo uno commerciale, con altri problemi, insomma, però, in maniera quantomeno riservato, quantomeno, diciamo, di cui la riservatezza dipende direttamente da te, insomma, non la delega a nessuno. Questo è un po' quando parliamo di non delegare la privacy, perché comunque sono cose su cui è rischioso, e anche noi non siamo in grado di dare nessuna garanzia, perché sarebbe scorretto e un po' illusorio. Ecco, nel corso degli anni c'è stato questo passaggio che forse non era nemmeno previsto all'inizio, forse si sperava e non si sperava di arrivare a questi livelli. Quanti utenti stiamo parlando per Autistici Inventati? Come è cambiata l'organizzazione nel corso degli anni prima di arrivare a questo che si è reso necessario? Come è nata, insomma? Noi siamo nati anni fa come un gruppo, vabbè, erano anche gli anni d'oro in cui del movimento, messa in maniera ironica, nel senso che i tipi di attività che c'erano in giro hanno permesso la costituzione del nostro collettivo in qualche modo. E abbiamo iniziato con un progetto esclusivamente sperimentale, come collettivo aperto, che faceva delle sperimentazioni nel campo della tecnica, essendo tutti anche attivisti, in qualche modo avevamo dedicato diciamo una parte del nostro tempo a questa cosa, mentre il resto della giornata, cosa che in realtà facciamo anche ora, insomma, quando non lavoriamo, è varie forme di attivismo, ognuno insomma in quello che gli piace. Col tempo questa cosa in realtà è diventata un po' più impegnativa, nel senso che non è ha smesso un po' di essere un gioco, perché comunque la quantità di utenti, adesso abbiamo tra le 4.000 e le 5.000 caselle mail, gli utenti iscritti alle mailing list arriveranno a 37.000, una cosa di questo genere, quindi si parla comunque di cifre di responsabilità che richiedono e richiedevano insomma un passaggio, cioè la struttura che avevamo prima era, insomma, noi la chiamiamo un accrocchio, cioè una corzaglia di cose messe, diciamo, cresciute col tempo, era arrivata a livello di saturazione, avevamo una macchina che era strapiena di dati personali di tutti e insomma l'esperienza insomma, ci aveva insegnato che era necessario quantomeno provare assumersi, se si doveva continuare insomma nell'approccio di non smettere, perché poi l'alternativa era in effetti questa, dire ok, vabbè, chiudiamo, non apriamo più nessuna casella email, siamo arrivati al massimo possibile, speriamo di reggere così, oppure rischiamo un po', mettiamo tutte le nostre risorse a disposizione umane e per un anno abbiamo provato a mettere in piedi un sistema che in questi giorni si sta in qualche modo passando in produzione, come si dice in linguaggio tecnico. Ecco, giusto per commentare un attimo invece dal lato tecnico, la struttura che si è data Autistici Inventati adesso è particolarmente complessa, diciamo che assomiglia molto a strutture che vengono applicate a livello industriale, commerciale, insomma, anzi, che persino le aziende a volte faticano a implementare, quindi diciamo che lo sforzo è notevole. Ho notato comunque che ci sono ancora dei problemi, soprattutto per quanto riguarda i siti internet non raggiungibili, risoluzione del DNS. Quindi qualche avviso, diciamo, per i primi giorni di possibili malfunzionamenti oppure mancato accesso alle mail. Insomma, chiaro. Sì, te l'aggiungo perché in effetti noi abbiamo un po' troppi domini, nel senso che abbiamo perso il controllo di quanti domini stiamo ospitando, perché sono cresciuti, non ce li siamo mai segnati, perché questa cosa di non segnare niente da nessuna parte per varie paranoie, poi alla fine ci perdiamo un sacco di cose. E quindi ogni tanto ci accorgiamo, ma avevamo anche questo dominio, ma mortemale.org, l'avevamo trasferito? No, ma aspetta, ma paranoici.org, di chi è il dominio? E quindi la spia per esempio ancora sta, è un altro dominio che sta da noi e che il sito ancora non è raggiungibile. I tempi dei DNS poi sono lenti, soprattutto perché quelli sono, diciamo, si diffondono, e quindi abbiamo per esempio sulla rete di Edison Tel, Telia, Atlanet, diciamo Livecom, diciamo uno degli spezzoni delle reti nazionali, fino a ieri ancora non eravamo raggiungibili. cambiando il DNS questa cosa si risolveva perché Telecom per esempio li ha aggiornati, però diciamo è stata una cosa che sta durando per ancora forse qualche ora, però io spererei che nel giro di veramente le prossime ore ormai il grosso del lavoro dovrebbe essere fatto. Le liste hanno ripreso a funzionare, che era l'altra cosa che ha creato un po' di problemi in questi giorni, perché c'eravamo, insomma, è un po' complesso perché le liste andavano risparpagliate, anche lì insomma è stato un po' complicato, però alla fine dovrebbe tutto aver ripreso a funzionare quasi, insomma, a parte i singoli utenti che magari ce lo dicono se non funziona qualcosa e noi magari riusciamo pure a rispondere. Sì, ecco, questo per avvisare appunto gli utenti che insomma le cose dovrebbero durare poco, sono spesso dovute anche a infrastrutture esterne, quindi di portare pazienza, che si tratta veramente solo di qualche giorno e che comunque la complessità della struttura e dell'idea comunque valgono la pena, insomma, dell'attesa di un, diciamo, di un down di una settimana, insomma, vabbè, nei sì, casi peggiori. Il down speriamo, cioè in pratica speriamo sia un po' meno. In effetti l'unica differenza che c'è, magari, cioè non l'unica, ma insomma una delle differenze con le strutture commerciali, che in effetti utilizzano spesso tecnologie molto simili come livello di complessità, perché la quantità di dati che sono questi, esatto, è il fatto che noi avevamo una complessità in più, a parte il fatto di non tenere i dati, che in realtà quello probabilmente forse semplifica, è il fatto che invece di aumentare semplicemente il numero di server, che era l'altra scelta che potevamo fare, metterli tutti in un bunker chiuso, no, sperando che diventasse inviolabile e avere più server tutti lì, abbiamo deciso di renderla un po' più difficile lato nostro, ma di sparpagliarli senza che questa cosa venga percepita dall'utente o comunque dall'esterno. Quindi i nostri server sono tutti collegati attraverso una VPN, insomma un sistema di criptazione che li tiene collegati tutti tra di loro, e il traffico delle mail viene sparpagliato all'interno, quindi insomma è abbastanza complicato, non impossibile ovviamente, ma insomma, un pochino più complicato cercare di navigare all'interno della rete se non si hanno gli accessi, insomma, giusti. Perfetto. Perfetto, ti ringraziamo. Ciao, a presto. Complimenti ancora ad Autistici Inventati che sono lanciati comunque in una cosa articolata, e a risentirci. Oh, beh, ragazzi, grazie a tutti. L'unica cosa, l'ultima, se certo avete problemi non esitate a contattarci, che stiamo rispondendo, proviamo a rispondere a tutti in tempi molto brevi. Quindi ecco, ci sono forum.autistici.org. È uno spazio pubblico per porre i problemi che ci sono ancora, se qualcuno continua a saperli. Perfetto, grazie, a presto. Grazie mille. Ciao. Grazie a voi, ciao ragazzi. E giusto per avere qualche riferimento più dettagliato proprio sulle configurazioni che bisogna cambiare per accedere di nuovo ai servizi di Autistici, hanno preparato un sito che si chiama onenetbehind.org. OneNetBehind, comunque, o qualcosa del genere. Esatto, comunque il link si può tranquillamente trovare sulla prima pagina di www.inventati.org, e in questa pagina sono scritte le motivazioni, una parte tecnica abbastanza dettagliata su come è stato realizzato, ma soprattutto una serie di istruzioni per gli utenti molto semplici con cui modificare la propria configurazione della propria posta oppure l'accesso al proprio spazio web. Ok, andiamo allora, continuiamo adesso con le segnalazioni. In particolare interessante un articolo pubblicato ieri da Paolo Attivissimo, giornalista, diciamo così, di cultura digitale, che da anni si batte per la divulgazione appunto dell'informatica, in particolare dell'informatica libera, con sempre i suoi consigli molto precisi e puntuali, e anche insomma, diciamo, il suo ruolo di cacciatore di bufale, per il quale si è fatto un nome nello smascherare tutte quelle panzane che vi arrivano via email, o che comunque le storie ridicole che vengono a volte prese sul serio da milioni di persone. In particolare è attivissimo nel suo sito web www.attivissimo.net, e in particolare nel suo blog attivissimo.blogspot.com, ieri segnalava il primo worm del nuovo web, con riferimento a myspace.com, una piattaforma che era stata recentemente acquisita dal magnate delle comunicazioni Murdoch, che è stata messa in ginocchio da quello che è appunto questo virus scritto in JavaScript, che ha permesso a un utente che si fa chiamare Sami di infettare il proprio codice col proprio codice oltre 1 milione di pagine personali di MySpace, che particolare da 2 giorni, scriveva ieri Paolo Attivissimo, poi magari adesso il problema si è risolto, lotta per rimettersi in piedi. I dettagli sono tutti disponibili in rete, è presente anche una intervista a Sami, purtroppo in inglese, ma andiamo un attimo nel dettaglio a vedere cosa ha combinato questo virus writer. Ha scritto del codice JavaScript che veniva eseguito dai browser delle vittime, ignorato dai filtri di sicurezza di MySpace, e questo codice JavaScript ovviamente non era standard. Qualunque utente quindi di MySpace che visitava la pagina di Sami avendo attivo JavaScript, che è di solito abbastanza indispensabile per poter usare i servizi di MySpace, eseguiva automaticamente e inconsapevolmente il codice, e quindi Sami veniva aggiunto alla lista degli amici del visitatore, e questo scavalcava insomma tutta una serie di permessi che vengono di solito richiesti. Quindi chiunque si infettava a sua volta visitando anche le pagine di chi aveva visitato la pagina di Sami, e non è questo è un po' la dimostrazione che non è assolutamente facile creare un'applicazione o un sistema operativo mettendo insieme un po' di JavaScript, un po' di XHTML e un browser. In particolare ci sono stati altri servizi che magari abbastanza simili o comunque ben fatti, come Gmail o gli stessi blog, che hanno degli editor che sembrano dei programmi di scrittura, grassetti, corsivi, si può fare il copia e incolla, si possono insomma fare delle estensioni. In realtà questo è un problema, perché i browser, quindi Internet Explorer ma lo stesso Firefox, sono fatti per essere abbastanza tolleranti, dato che molto spesso le pagine vengono scritte, le pagine HTML vengono scritte da persone che magari non conoscono il codice a meno dito, e quindi non hanno la voglia di, non hanno il tempo né le competenze tecniche di scrivere delle pagine perfette. I browser di solito sono abbastanza tolleranti, e quindi di conseguenza ogni strumento in più che viene fornito attraverso dei browser, quindi per esempio tutte queste piccoli editor di programmi di scrittura, i servizi che rendono possibile come ad esempio i wiki eccetera, a volte possono avere dei problemi relativamente proprio al fatto che vengono visualizzati attraverso browser che sono abbastanza tolleranti. E poi leggiamo le conclusioni di Paolo Attivissimo: le applicazioni via web non si ne andranno perché ovviamente sono un obiettivo estremamente interessante. Per esempio, immaginate di poter accedere a tutti i vostri programmi preferiti da qualsiasi computer con la stessa facilità con la quale accedete alla vostra webmail da un internet caffè o da un PC di un amico. Tuttavia, probabilmente prenderanno piede soltanto quando qualcuno scriverà un browser su misura privo delle attuali tolleranze. E questo sì che è un compito per Google, conclude Paolo Attivissimo, facendo riferimento a una delle aziende probabilmente più serie in questo campo. Ci sono un paio di cosine in più da dire. Allora, lasciando stare le prospettive per Google, che recentemente ha proprio stretto forti alleanze con la Sun, che è l'azienda che sviluppa Java, segno di un possibile futuro sviluppo comune appunto di applicazioni desktop remote, quindi esattamente quello di cui stiamo parlando. Ci sono un paio di cose. Allora, innanzitutto Firefox nelle ultime versioni è diventato un po' meno tollerante, tant'è vero che spesso non è possibile utilizzare alcuni di questi programmi usati comunemente per l'editing delle pagine, se non dando degli espliciti come si può dire, autorizzazioni al browser ad attivare questo genere di linguaggio all'interno di un sito che però si conosce e ben definito. Quindi questa è una cosa. Altra cosa è che spesso e volentieri questo genere di problemi si hanno sul software chiuso. Il software open è già un po' di anni che evidenzia la difficoltà di trovare comunque componenti sicure per l'editing, e comunque dichiara sempre le varie problematiche che vengono fuori. Così è successo per PHP Nuke, che era un sistema appunto per l'editing delle pagine web da parte di utenti non esperti, e mano a mano che le varie problematiche venivano rilevate, insomma, il prodotto si è segnalato sempre più insicuro fino a quando sostanzialmente adesso viene considerato un prodotto da non utilizzare e sono nate delle alternative che risolvevano questo genere di problemi. Quindi diciamo che l'applicazione web ha esattamente gli stessi identici problemi di un'applicazione normale, ha bisogno di uno sviluppo, di un controllo costante, e anche qui le applicazioni open danno il loro meglio perché sono costantemente monitorate, utilizzate da tanta gente in tanti servizi diversi e tendenzialmente sono più sicure. Vabbè, tiriamo un po' il fiato magari con un brano musicale. Che cosa ci proponi oggi, Alessandro? Propongo allora Ettore Giuradei e Malacompagine, che sono già stati suonati sulla radio anche in occasione della festa perché hanno suonato la tenda migranti. Comunque non fa mai male, insomma, fare pubblicità. È un autore bresciano, quest'album non è ancora registrato, non è pubblicità commerciale comunque, esatto, quindi diciamo che rientra perfettamente nel nostro genere di trasmissione. Sguardo stanco, stanco, stanco, che s'avvicina al cielo di quest'autunno che piano piano chiama un Natale caldo. E la nebbia, nebbia, nebbia salva solo il marciapiede sotto le foglie che si stan lasciando alla triste tradizione. Con quella sciarpa, sciarpa, sciarpa, tre soldi e la berretta, apro la porta dell'osteria nascosta che si è già sposata il vino. Questo era il brano La nebbia e il vino dall'album Pancia Storia di Ettore Giuradei e Malacompagine. E ricordiamo beh, il sito www.ettoregiuradei.it, dove ci sono le biografie dei musicisti e insomma le cose classiche che si trovano su un sito di musicisti. Vabbè, allora, microfono, ecco, perfetto. Allora noi continuiamo con la trasmissione. Adesso andiamo a segnalare un paio di notizie che riguardano invece altri progetti che esistono in rete, alcuni di cui abbiamo già parlato, Wikipedia, e poi un altro che invece si tratta di apprendimento online, in particolare su Wikipedia. Alessandro? Allora, è uscito... O Wikipedia, che non ho mai capito. Ma credo sia abbastanza differente. Non sai, allora... enciclopedia, quindi Wikipedia, però in realtà non si sa, è un mistero. Allora, un esperimento fatto da A.J. Jacobs, saggista che scrive sul New York Times, che ha messo alla prova la popolare enciclopedia aperta Wikipedia, di cui abbiamo parlato l'anno scorso. Ricordiamo che è un'enciclopedia su cui tutti possono scrivere e a cui tutti possono contribuire correggendo le voci già presenti. Esiste in varie lingue, tra cui l'inglese, ovviamente quello con più lemmi, e l'italiano, che è la seconda con più lemmi. Allora, Jacobs ha provato a inserire un lemma in cui invitava appunto le varie persone a editare il lemma, a modificarlo, correggerlo, a integrarlo. E nel giro di 48 ore il lemma è stato modificato quasi 400 volte. La conclusione che Jacobs trae da questo esperimento è che i progetti come appunto Wikipedia, che si basano su quella che viene detta l'intelligenza collettiva, possono essere effettivamente efficienti, e anche i maggiori detrattori di questo tipo di sviluppo, insomma, di idee, di scritti, eccetera eccetera, come ad esempio l'affidabilità, sono stati messi a comunque nel falso. È stato dimostrato appunto come l'intelligenza collettiva riesce anche a produrre materiale affidabile nel giro di pochissimo tempo. La possibilità data a molte persone di revisionare lemmi scorretti permette sostanzialmente un'autenticità in quello che uno può trovare in queste forme di scritti, in particolare in Wikipedia. E sempre riguardo ai progetti collettivi, segnaliamo un sito che si chiama www.e-socrates.org. È un sito che fa e-learning, per chi non sapesse di cosa si tratta, è sostanzialmente un'integrazione di strumenti per l'insegnamento a distanza, tendenzialmente via internet. Sono una serie di strumenti che possono essere dispense, esercizi, lezioni, raccolti a disposizione degli studenti. Le università stanno tentando di sviluppare questo genere di insegnamenti, ovviamente per i soli iscritti alle facoltà. Mentre questo sito si pone l'obiettivo già dal 2003 di promuovere un free learning, ovvero una disponibilità di questo materiale, di docenti, di tutor, tutti volontari, che offrono informazioni e istruzione su varie tematiche. Il sito è fatto piuttosto bene, direi anzi che fa degnamente concorrenza ai sbandierati siti di learning di aziende blasonate nel settore. È uscita appunto un'intervista su un punto informatico al curatore, uno degli ideatori di Socrates, dove appunto segnalo insomma le caratteristiche principali. In particolare uno dei punti deboli maggiori è proprio il fatto che prevede comunque una certa dimestichezza col mezzo informatico, quindi i corsi più seguiti sono appunto quelli di informatica, mentre quelli, non so, di lingue piuttosto che di musica, psicologia, sono un po' meno frequentati, comunque presenti. E diciamo che ci vorrà ancora un po' di tempo, insomma, per far prendere piede a questo genere di tipologie di insegnamento. Comunque l'esperimento è assolutamente interessante e soprattutto interessante la gratuità. Ecco, c'è qualche dato su quante persone per esempio si sono iscritte o quante persone hanno partecipato ai corsi da qualche parte? No, non ne parla direttamente, fa appunto una distinzione tra le due tipologie di corso. Non parla direttamente del numero di iscritti, anche perché non sempre è necessaria l'iscrizione, nel senso che il materiale è disponibile anche a chi non si iscrive direttamente alle lezioni. Diciamo che l'iscrizione serve più come possibile tracciabilità delle informazioni, quindi una volta che ci si è iscritti è possibile ricevere la mail che indica il giorno in cui ci sarà la tal lezione, oppure quando è arrivato del materiale riguardante l'argomento, i corsi a cui siamo iscritti, quindi diciamo che ha più quel servizio. Quindi anche stimare gli utenti reali è difficile, diciamo che si possono stimare gli utenti che seguono assiduamente. In conclusione segnaliamo anche una bizzarra notizia, che non è una notizia ma è purtroppo la verità. Ecco, diciamo che se non fosse pubblicata dall'Electronic Foundation, scusa, Electronic Freedom Frontier Foundation, ecco, scusate. Ancora già l'anno scorso c'erano stati problemi con questa sigla, che è detta EFF. Esatto, l'EFF, l'Electronic Frontier Foundation, che si propone di difendere la libertà nel mondo digitale. Io personalmente non ci crederei, però visto che l'hanno pubblicata loro, possono essere veramente pochi i dubbi. Si tratta di una cosa che è al limite della paranoia, dato che... Quindi tipica dell'EFF. Allora, la notizia è uscita il 17 ottobre, quindi l'altro ieri. Allora, diciamo, nei laboratori delle FF si sono accorti che un buon numero di stampanti laser a colori hanno un sistema di tracciabilità dei documenti, ovvero inseriscono nel documento che voi stampate dei puntini, generalmente gialli di piccole dimensioni, difficilmente visibili a occhio nudo, che permettono di identificare la data di stampa e il numero seriale della stampante che l'ha stampato. Un po' come una sorta di tracciabilità, come le macchine da scrivere, insomma. Ritorno al passato, esatto. E ha veramente dell'incredibile questa scoperta, che appunto... E anche considerando che per le macchine da scrivere non esisteva un elenco pubblicamente consultabile, o comunque consultabile dall'FBI e dalle agenzie dello Stato, di quale macchina da scrivere pubblicava in un certo modo, cioè... Non era così facile e scontato risalire da un documento ad un'altra, alla macchina da scrivere che l'aveva pubblicato. Esatto, invece questo è praticamente un servizio che i produttori di stampanti forniscono ai servizi segreti americani, che hanno tranquillamente ammesso che effettivamente c'è questa possibilità nelle stampanti laser a colori, e a questo punto sorge spontaneo il dubbio, il pensiero che non si limiti semplicemente alle stampanti laser a colori, nel senso che alla fine sono una fetta di mercato piuttosto piccola, e non si capisce perché proprio questo accanimento verso le laser a colori. Però forse perché era quella più facile per farlo, nel senso che per esempio farlo, in alcune, con questa tecnica, con questa tecnica alcune stampanti ad esempio stampano dei puntini gialli quasi impercettibili che fanno risalire tramite il codice alle stampanti originarie. Certo è che il dubbio a questo punto viene, insomma. Diciamo che questo è quello che sulle stampanti laser a colori l'EFF ha fatto degli esperimenti, effettivamente ha trovato che c'è un buon numero di stampanti che prevedono questa forma di identificazione, non tutte, comunque presso il sito dell'EFF esiste un elenco delle stampanti che stampano questo genere di informazioni, oppure che non le stampano, oppure che non sono state testate. Comunque c'è un bel elenco, e parecchie, anzi quasi tutte, fanno questo genere di cose, soprattutto quelle di una certa fascia. E beh, a questo punto un giorno ci sarà qualcuno che creerà un programma per modificare questo printing delle stampanti, prima o poi. Questo è abbastanza difficile, trattandosi di hardware è sempre piuttosto difficoltoso. Comunque, beh, l'FF sta portando avanti, anzi, merita di portare avanti un'iniziativa per un completo chiarimento di questi meccanismi di identificazione che, come ricorda l'FF, non sono assolutamente previsti nel quadro legislativo americano e direi neanche in quello europeo italiano, quindi totalmente non regolate, sostanzialmente accordi diretti tra le case produttrici e i servizi segreti dei vari paesi o tendenzialmente anche solo quelli americani. Comunque direi un bello schiaffo alla privacy e alla trasparenza. Avevamo detto che questa puntata sarebbe durata di meno, invece non è stato così. Beh, sì, comunque i nostri 40 minuti, quindi vabbè, direi che per oggi è abbastanza. Salutiamo Sigla, tutti. sigla, sigla, mettiamo la sigla. Ah, quanta fretta. Cialtroni nello spazio vi saluta, l'appuntamento è per mercoledì prossimo. Se vi siete persi l'inizio della trasmissione e volete riascoltarla quando volete o farla sentire ai vostri amici, radio.circolab.net oppure spazio.circolab.net, che poi è la stessa cosa. Troviamo insieme per fare gli sboroni. Scriveteci! E soprattutto, appunto, dite la vostra e scriveteci.